Tempo di sport di Gigi Garanzini. Le squadre del giorno sono tre, direi in ordine di importanza per le imprese che hanno compiuto: la Lazio, l'Udinese e la Juventus. La Lazio è arrivata a 22 punti su 27, ha raddoppiato il suo vantaggio in classifica, perché non ha più, dopo una trasferta dura come quella di Palermo, non ha più due punti sul Milan, ma ne ha quattro sull'Inter. L'Udinese, dopo quattro sconfitte iniziali consecutive, cioè a quota zero, nelle successive cinque partite ha messo insieme 13 punti su 15 e oggi è già nella parte sinistra della classifica. La Juventus ha vinto il confronto diretto di Milano con molte difficoltà, sia del Milan che della Juventus, dal punto di vista degli infortuni preventivi e poi in corso d'opera, ma insomma ha vinto in maniera autorevole, meritata. E dato che questa era la seconda uscita a San Siro di stagione, la prima era finita con un meritato pareggio contro l'Inter, la seconda con un'altrettanto meritata vittoria contro il Milan, beh, insomma, è evidente che questo rilancia la Juventus nella corsa al vertice. Se queste sono le squadre del giorno, i casi del giorno sono tanti, a cominciare da quello di Cassano, che al momento non registra alcuna novità. C'è un'agenzia battuta da poco da Genova, alle scuse di Antonio Cassano non è seguito alcun cenno di riscontro da parte della società, e questo significa che al momento le porte per Cassano sono sbarrate. Potremmo sentire subito, in attesa poi dei vostri interventi, i vostri commenti, le vostre riflessioni del lunedì all'800 24 00 24, potremmo sentire subito che cosa un diretto interessato, che è Di Carlo, l'allenatore della Sampdoria, due indiretti interessati, che sono Marotta e Del Neri, non tanto perché Cassano, non tanto o non solo perché Cassano potrebbe andare alla Juve, ma perché loro l'hanno gestito la scorsa stagione, e Marotta in particolare era stato l'artefice dell'operazione ripescaggio Cassano dal Real Madrid. Sentiamo questi tre personaggi che cosa pensano della vicenda. Ma io penso che in questo momento qui, finché non si riunirà il collegio arbitrale, non possiamo farci più niente, nessuno ormai. Perciò fino a quel momento lì, fino a quel giorno che si riunirà il collegio arbitrale, noi sicuramente non possiamo fare più niente, perché le cose ormai sono andate avanti e bisogna aspettare quel giorno lì. Poi da quel giorno in poi probabilmente vedremo che succederà. No, assolutamente, perché noi non vogliamo intaccare quello che è il rapporto con la Sampdoria. La Juventus non c'entra assolutamente nulla e niente, e quindi posso dire che il progetto della stagione andrà avanti con questo gruppo di giocatori. Una vendita? Ma non, al di là del rispetto che abbiamo per lui, non, ripeto, noi abbiamo un gruppo di giocatori con i quali andremo fino in fondo. Ho appreso dai giornali, e la cosa mi dispiace, perché conosco sia Garrone che Cassano, quindi mi auguro che si possa ricomporre la cosa. Vabbè, Antonio come giocatore non che si discuta molto, con i miei rapporti ultimamente, anche come rapporto interpersonale, insomma, devo dire che dopo negli ultimi sei mesi c'è stato un capirsi molto più velocemente. L'ho lasciato maturo quando sono stato via da Genova, quindi non capisco bene quello che è accaduto adesso in questi ultimi tempi, quindi non posso esprimermi. C'è un altro caso che sta nascendo in Inghilterra. Leggo un'agenzia arrivata da poco, da Manchester: uno spogliatoio in subbuglio, insofferente e disintegrato, che chiede una sola cosa, l'esonero di Roberto Mancini. C'è grande tensione in casa del Manchester City dopo la seconda sconfitta consecutiva sul campo dell'ultima in classifica, ma non solo, sempre stando a queste notizie d'agenzia, giocatori frustrati dai metodi del tecnico italiano, scontenti del suo modo di relazionarsi, confusi dalle sue scelte tattiche. È difficile trovare un solo giocatore all'interno dello spogliatoio che vada d'accordo con Mancini. Certe volte lui cerca di fare anche il duro, ma nessuno lo prende più sul serio. Al punto che il Sun, che non ci va mai leggero in questo genere di cose, ha già definito Mancini dead monk walking, cioè Mancini un morto che cammina, che sembra un po' greve, soprattutto in questi giorni, visto che domani è pure la ricorrenza dei morti. C'è un po' di sacro, un po' di profano in tutto questo, ma magari in Inghilterra invece hanno altre date, e comunque il Sun ha altri metodi, altri tagli giornalistici. Io sentirei, come omaggio, dicevo, ai protagonisti della giornata, in ordine di importanza, sentirei prima il commento di Rea alla vittoria di Palermo, e con la consueta gag dei punti che mancano alla salvezza. Diciamo che mancano ancora 18 punti ai famosi 40. E una volta che raggiungeremo questo obiettivo vedremo un po' in che condizioni saremo. Il 3-5-2 l'ho fatto solo a Napoli, non l'avevo mai fatto in tutti gli anni precedenti, ho provato all'inizio anche in preparazione, però i ragazzi dicevano che erano sicuri coi tre perché erano abituati a giocare così, e poi ho insistito ancora durante la settimana a provare ancora il modulo a 4. Poi quando è arrivato Hernanes ho cercato di dare più forza in questa zona centrale del campo e ho dovuto optare per la soluzione a 4, spostando Radu sinistra che è un po' più difensore e Lichtsteiner che è quello che magari si propone un po' di più. Beh, soluzione che funziona è che ha avuto ieri un riscontro molto importante, perché Palermo è un campo oggettivamente difficile. Mai così tanti punti ha fatto la Lazio dopo 9 giornate, sono addirittura 22. Da qui in avanti userò alcune delle statistiche che Franco Piantanida ha preparato come ogni lunedì, e le userò a proposito di molte squadre e anche di alcuni vostri interventi, perché dopo 9 giornate i numeri cominciano a essere un po' significativi, anche quelli di Reia, per esempio, che come allenatore in carriera aveva giocato 6 volte a Palermo, 5 volte aveva perso e 1 pareggiato. Insomma, che vinca nell'occasione più importante qualcosa significa. Adesso domenica c'è un'altra controprova, che è quella del derby con la Roma. Tra poco un paio di vostri interventi già segnalati dalla regia. Io continuerei per il momento con un altro degli uomini del giorno, e cioè Guidolin e la sua Udinese, che ripeto, dopo 4 sconfitte consecutive nelle prime 4 giornate, che avevano fatto pensare addirittura ad un esonero, invece c'è stata questa grande rimonta, per cui l'Udinese è la squadra che ha fatto più punti insieme alla Lazio nelle ultime 5 giornate. Guidolin. Stiamo raccogliendo dei buoni risultati a fronte di buone prestazioni. Ripeto quello che ho già detto a questi microfoni e ad altri microfoni: noi sul piano delle prestazioni non abbiamo mai mancato in questo inizio di stagione, sul piano dei risultati c'è una differenza enorme tra quello che abbiamo fatto il primo mese e quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo giocato una buona gara, è partito meglio il Bari, poi abbiamo trovato un gol meraviglioso di Sanchez, da lì per noi è diventata una partita che abbiamo controllato meglio e che abbiamo meritato poi di portare a termine con la vittoria. Merito anche, e questo va detto perché ogni tanto va ricordato, merito anche di una società che l'Udinese e del suo presidente Pozzo, che in nessun momento, del suo azionista di maggioranza Pozzo per la verità, in nessun momento, neanche nel più buio, si è mai fatto attirare dalla tentazione, dall'equazione facile, banale, la squadra non funziona, quindi è colpa dell'allenatore. L'ho anzi riconfermato a piena voce dopo quelle 4 sconfitte, e i risultati adesso si stanno vedendo. È il momento del terzo uomo del giorno, che è, no, poi ce n'è un quarto, che è Mazzarri, ma Mazzarri è sempre l'uomo del giorno per il mio, per il suo modo come dire singolare di interpretare e rivisitare le partite, che siano andate bene o che siano andate male. Questo lo facciamo magari dopo l'intervallo. Io adesso sentirei del Neri, l'abbiamo già sentito un attimo prima masticare qualche concetto su Cassano, adesso lo sentiamo soffermarsi sul momento della Juve, che comprende anche un sacco di infortunati. Dopo un avvio non sostentato, così le prime due, la Juve sta cercando di fare questo, per quello che mi riguarda. Vedo anche la Lazio, però, che sta avendo un successo importante, inaspettato forse inizialmente, però meritato fino a questo momento. Io penso che tutte le squadre possono migliorare. Diciamo che siamo sulla strada giusta, c'è molto da lavorare, però i ragazzi sono molto applicati e mettono su questa idea, chiamiamola così, tutta la loro qualità tecnica e fisica. Ah, per questo è sfortuna, perché no, il lavoro che facciamo sul campo come preparazione fisica è perfetto. Devo dire che sono tutti legati a traumi fisici, cioè contatti. Probabilmente il calcio adesso è di impeto molto importante, molto fisico, e anche l'impatto mi sembra sia abbastanza, tra velocità e forza fisica, produca questi effetti. Siamo un po' sfortunati, però andiamo avanti aspettando questi giocatori che rientrino. E questa era del Neri. L'ultima ora che leggo su Sky Sport 24 è che domani Cassano chiederà di essere reintegrato e di poter disputare l'allenamento, e nel frattempo ha già comunicato che vorrebbe evitare questo taglio contrattuale, che tra l'altro si presta, insomma, non è chiarissima come modalità, al punto che tra qualche minuto arriverà dal capezzale del Sole 24 Ore, arriverà il nostro amico Marco Bellinazzo a spiegarci, insieme ad altre cose che riguardano lo sciopero dei calciatori, ma anche che cosa significa questa rescissione contrattuale unilaterale chiesta, tecnicamente che cosa significa, chiesta dalla Sampdoria. Mario ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Voglio dire che per Cassano, a vedere cosa vogliamo fare e se vogliamo aiutarlo o se invece... E come al solito i giornalisti hanno bisogno di qualche scandalo o di qualche scoop. Ascolti Mario, il bambino dell'asilo bisogna mettere i paletti. E se invece serve per fare, come dicevo prima, degli scoop, allora insegna anche il nostro Premier che dovrebbe essere un pochettino più educativo di un Cassano. Perciò secondo me... Cioè dobbiamo fare un bel gesto anche lì, cosa facciamo? Facciamo una telefonatina in questura? No, non mi sembra il caso, non mi sembra, no, questa la... Mi faccia capire meglio. Cioè, dobbiamo mettere dei paletti e fargli capire che il bambino dell'asilo non lo deve fare. A Cassano. Se invece però, si ha bisogno di fare degli articoli, di parlare di certe cose. Ascolti Mario, mi spieghi una cosa però, seriamente. Sì. Cioè dov'è che in questo caso la stampa sportiva o non, avrebbe sbagliato in caccia di scoop? Mi spiego. Per due giorni, mi faccia finire un istante, per due giorni la stampa responsabilmente, secondo me in questo caso, non ha nemmeno pubblicato, pur essendone in possesso, le frasi testuali che Cassano aveva rivolto al suo presidente. Quindi mi sembra che non ci fosse nessun intento scandalistico in questo. Poi dopo due giorni queste frasi sono uscite, anche perché nel frattempo la vicenda era ancora in divenire e la stessa Sampdoria non aveva ancora assunto una decisione definitiva. Dov'è il gusto di scandalo se addirittura per 48 ore si cerca di coprire l'immondizia che questo disadattato ha rovesciato sul suo presidente? Diciamo che io ascolto questa trasmissione perché la ritengo seria. Io parlavo così in generale che siamo abituati in televisione, sulla stampa, eccetera, a vedere che succede un fatto e poi se ne parla per una settimana. Non è un'accusa per lei, per la sua trasmissione, ma in generale è quello che succede. Continuo a non capire. La ringrazio comunque del suo intervento. Farei un salto un po' più giù. Andrei da Marco a Napoli. Buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Senta, io volevo andare un po' fuori tema. Vada. Volevo fare una domanda a lei direttamente. Allora, secondo lei le intemperanze di Totti sono più o meno gravi della simulazione di Krasic? Passo e chiudo. Naturalmente sono un tifoso juventino. Sì. Però mi pare che certi eventi vengano sottolineati, analizzati, stigmatizzati. Altri invece stranamente vengano... giustificati, accarezzati, diciamo, poverino, l'espulsione era ingiusta, siamo d'accordo che l'espulsione fosse era ingiusta, però tentare di aggredire un avversario, insomma, mi sembra abbastanza grave. Marco, il tuo parere? Il mio parere è che sono due vicende completamente diverse, perché uno riguarda una vicenda tecnica, cioè una tentata truffa in area di rigore, così è stata definita sia dal giudice sportivo che poi dalla disciplinare. L'altra invece nell'altro caso si tratta di due momenti distinti. In una Totti subisce una scorrettezza e reagisce in maniera blanda. Per una volta nella sua vita, una delle pochissime, reagisce in maniera blanda. Tant'è vero che io credo che in quel momento pecchi di protagonismo l'arbitro Gervasoni, che non vede l'ora di salire all'onore delle cronache e di cacciare Totti davanti al suo pubblico, alla fine di un'azione che tra l'altro si era conclusa con il gol. Sinceramente mi sembrava, se non da espulsione, quasi da scorrettezza di Oliveira, perché palesemente gli taglia, fa finta di tagliargli la strada, in realtà lo sgambetta mentre questo segue l'azione e in quel momento la palla è ancora in gioco. Quindi credo che la sanzione, questa è anche l'opinione per esempio di Paolo Casarin, che ho letto stamane su Corriere della Sera e che mi sembra uno discretamente autorevole e preparato in materia. Poi, scomponendo quello che accade, c'è una seconda parte in cui Totti si ritiene vittima di un'ingiustizia, sbrocca, come purtroppo gli accade molto spesso, e sbroccando si prenota da 2 a 3 giornate di squalifica, perché così poi questa alla fine sarà la sanzione. Quindi Totti sbaglia in un secondo tempo, sbaglia in maniera molto grave, in un primo caso invece sbaglia seriamente l'arbitro. sbaglia anche lei a sommare due episodi che non c'entrano minimamente l'uno con l'altro. Possono entrare, possono avere una liaison soltanto a causa di tifo, e sappiamo che il tifo difficilmente, difficilmente aiuta a ragionare, insomma. Davide, chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto le faccio gli auguri per la trasmissione. Io volevo chiederle una cosa. Ieri ero presente a Brescia alla partita Brescia-Napoli. Sì. Sul risultato di 0-0 nel secondo tempo, Brescia attaccava, eccetera. Il buon Gargano, già ammonito, per una buona trentina di secondi ha continuato, e usiamo un eufemismo, a mandare a quel paese l'arbitro, ma proprio in maniera evidentemente plateale proprio. L'arbitro lo vede, lo punta, si mette già la mano al cartellino, poi arriva il portiere dalla porta, stanno lì a discutere eccetera eccetera, buono, discussione, e il Gargano rimane in campo. Volevo solo ricordare che nella stessa occasione Diamanti a Roma con la Lazio ha preso 3 giornate. La ringrazio e aspetto la risposta per radio. C'è poco da rispondere, Davide, bisogna sentire, bisogna sapere che cosa Gargano ieri ha detto effettivamente all'arbitro e che cosa invece Diamanti aveva detto a quell'altro arbitro. Su che cosa abbia detto ieri Gargano io sinceramente lo ignoro e preferirei anche continuare ad ignorarlo. Che cosa invece aveva detto Diamanti è noto, perché la persona più furibonda per quello che Diamanti aveva detto all'arbitro era Corioni, il presidente del Brescia, se lo ricordo, io credo che se lo ricorderà, se no glielo ricordo io, e questo significa che Diamanti si era certamente messo nelle condizioni di beccarsi 3 giornate. Gargano ieri sinceramente non so, però l'hai mandato uno spunto. Perché a proposito di Brescia-Napoli di ieri, io sentirei lo strabiliante commento, lo strabiliante per chi ha visto la partita, per chi ha seguito l'andamento di questa partita, per chi ha avuto modo di valutare se o meno il risultato fosse giusto, a parte che non si parla mica di furto, il Napoli ha segnato un gol regolare e se lo è meritato, ma il commento di Mazzarri secondo me rimane ugualmente strabiliante. La partita l'abbiamo fatta sempre noi, sia nel primo che nel secondo tempo. È chiaro, poi soprattutto anche dopo che siamo andati in vantaggio ci hanno creato qualche apprensione, perché le tentano tutte le squadre, è entrato Possanzini, insomma è normale su un campo difficile come Brescia, con una squadra comunque tecnicamente valida. Io credo che il Napoli ha fatto una bella partita, aggiungerei che comunque l'ha fatta sempre il Napoli come se giocasse in casa. Il Brescia andava di rimessa, qualche volta nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà. Io credo che questo sia un frammento definitivo, che pregherei la regia di mettere da parte. Noi lo mettiamo da parte, e da ora definitivo in che senso? Perché non lo fa apposta, secondo me, Mazzarri. Cioè, se uno esce, io capisco, tutti dobbiamo capire la tensione, lo stress di una partita e di un dopo partita. Il giusto bisogno di difendere la propria squadra, la propria prestazione. Ma se quando uno perde è sempre colpa dell'arbitro o di un evento sovrannaturale, e quando uno vince in maniera diciamo pure casuale come ieri, ha il coraggio di dire che la sua squadra ha fatto la partita quando non l'ha beccata mai, ma proprio beccata mai, e la partita semmai l'ha fatta il Brescia. Ora, questo è un modo di dire che è in voga da qualche anno, è un modo abbastanza ridicolo, perché comunque poi chi faccia la partita o non faccia la partita, i gol sono quelli che contano oggi come ieri. Ma insomma, diciamo che significa più o meno aver avuto un'iniziativa, significa dire ci hanno provato di più, hanno giocato meglio, hanno avuto. Allora, se il Napoli ieri ha fatto se per Mazzarri ieri il Napoli ha fatto la partita e l'ha ripetuto 2 volte, io credo davvero che non sia colpa sua, che lui sia davvero fatto così e che vada depenalizzato da ora in poi da tutto quello, da tutte le musse, avrebbe detto Gianni Brera, che ci racconta. Per la prima volta di stagione ha sbagliato abbastanza gravemente l'arbitro Tagliavento, che da un annetto a questa parte è il miglior arbitro della Serie A. Qual è il problema? È che ha sbagliato negando un rigore colossale con espulsione a un certo Pellissier del Chievo, ed è altrettanto evidente che se questo rigore l'avesse negato vado in ordine alfabetico, Inter, Juventus, Milan in ordine alfabetico, Napoli, Roma o qualcosa del genere, a quest'ora sarebbe il centralini intasati e sarebbe anche colpa mia, no? Se non gli ha dato sto rigore, l'ha negato per i sì, ma cosa volete che gliene freghi al pubblico del Chievo? Sono cose che vanno e vengono, evidentemente, come è giusto che sia, perché sono cose che vanno e vengono, solo che vanno soltanto se riguardano il Chievo, se invece riguardano le altre che ho nominato, vengono, no? Vengono a bilancio negativo e a congiura nei confronti dei colori sociali. Bentornato Marco Bellinazzo, buongiorno. Buon pomeriggio. Che ha fatto il suo solito piano di scala all'ingiù dal Sole 24 Ore e adesso ci racconta come funziona questa casistica di Cassano, cioè che cosa ha chiesto esattamente la Sampdoria da un punto di vista contrattuale e che cosa succede ora senza colpi di scena. È l'impressione che questa cassanata sia un po' più grave delle altre, se non altro perché ha avuto come destinatario il presidente del club, persona da tutti stimata, che ha contribuito molto al suo rilancio e che dunque, ferito nell'orgoglio, potrebbe come dire, adottare comportamenti e chiedere sanzioni che vanno anche al di là di quella che è la logica strettamente giuridica o economica. Potrebbe mantenere un proposito già annunciato. Tutte le sedi, tra l'altro. Per quello mi riferivo insomma alla gravità dell'episodio e le scuse reiterate che ora Cassano sta approfondendo attraverso tutti i media testimoniano in qualche modo la percezione anche da parte del suo entourage e la gravità della situazione. Certo. Ora, in termini strettamente giuridici, il procedimento è avviato, quindi gli organi federali, il collegio arbitrale dovrà pronunciarsi sulla gravità del comportamento di Cassano e, come se si trattasse di una causa per licenziamento, insomma, stabilire se è il caso o meno di procedere alla risoluzione del contratto, risoluzione unilaterale. Chiaramente poi Cassano avrebbe la possibilità di ricorrere in secondo grado, ma qui entriamo in una disputa giuridica che a mio avviso dovrebbe fermarsi prima, se però attingiamo a quella logica economica di cui parlavo prima, che a un certo punto dovrà subentrare, perché chiaramente ti fermo un attimo. La logica economica vuol dire che la Sampdoria con la procedura che ha attivato perde tutto quello che può perdere su Cassano, cioè Cassano non è più un giocatore suo. Diciamo che se il collegio arbitrale riterrà grave al punto da rescindere il contratto, da annullare il contratto tra Cassano e la Sampdoria, Cassano a quel punto sarà un giocatore libero di accasarsi dove meglio crederà e dove troverà ospitalità. La Sampdoria si libererà dell'ingaggio e degli oneri connessi all'ingaggio di Cassano, ma chiaramente perderà anche quelli che sono i suoi diritti economici, insomma il suo asset patrimoniale si disperderà, inclusa quella clausola rescissoria tra 15 e 20 milioni di cui si è parlato e che invece probabilmente potrà far fruttare qualora invece il collegio arbitrale decidesse semplicemente di infliggere una multa per quanto salata a Cassano. I rapporti a questo punto mi sembrano chiaramente non recuperabili o molto difficilmente recuperabili. La Sampdoria, evidentemente, la Sampdoria società intendo e non Garrone in quanto tale, che evidentemente vorrebbe liberarsi, visto l'offesa che ha subito, potrebbe invece consigliare alla dirigenza della Samp, come dire, di procedere nei prossimi due mesi a trovare un acquirente a Cassano. Si parla già della Juve in termini molto concreti. Molto concreti, e quindi, come dire, recuperare quei soldi legati alla clausola rescissoria e quindi comunque far fruttare l'investimento che qualche anno fa fu fatto recuperando Cassano dalle macerie madrilene. Certo. Se non ho capito male dalle tue parole, salta fuori una eventualità paradossale, e cioè quella che il collegio arbitrale al quale la società si rivolge per ottenere il massimo della pena, in realtà potrebbe, non comminando il massimo della pena, potrebbe fare un favore proprio alla Sampdoria, cioè alla società richiedente, perché se non gli combina il massimo della pena significa che rischia di salvargli la clausola rescissoria e quindi la possibilità di introitare il quattrini. Può sembrare un controsenso, ma sono gli effetti, diciamo, della procedura e del diritto quando si va avanti e quando si decide di adire un giudice anziché insomma risolvere in famiglia le questioni così complicate, insomma, come effettivamente sono queste tra Cassano e il presidente Garrone. Complicate non poco, anzi ormai andate molto molto oltre per quello che riguarda la Sampdoria fino adesso. Poi è vero, e lo dicevo prima e lo ripeto a beneficio di chi si è collegato più tardi, che Cassano sta continuando a mandare segnali di pace, chiede di poter essere reintegrato, chiede anche, è disposto a rinnovare, è disposto, ci mancherebbe altro, a rinnovare, reiterare le scuse eccetera eccetera, chiede di potersi allenare e finché ce n'è. Io posso fare un pronostico? Cassano manda Carolina dal presidente Garrone e finisce con una tortata, no? Con una, con una cosa come lei, ma potrebbe anche finire così, con Carolina, secondo me. Con... Beh, tra l'altro lui ha già detto, insomma, senza poi entrare troppo in questioni che tengono alla privacy di Cassano e di sua moglie, che come dire, il nervosismo particolare di quei giorni l'ha dovuto proprio a una situazione familiare, la sua necessità di restare a casa, anche perché tutto è nato dalla mancata presenza di Cassano a una premiazione alla quale il presidente Garrone teneva molto, e da lì in poi come dire, ho sentito parlare in questi giorni molti ex allenatori ed ex dirigenti che hanno contribuito al recupero di Cassano, da Mazzarri a Marotta al Del Nere, e sono tutti assolutamente sorpresi. C'è da chiedersi se effettivamente nel nuovo staff dirigenziale della Sampdoria ci siano persone in grado di contenere le... in grado di far da filtro. Ecco, questo può essere il dubbio. D'altro canto è vero che chi fa da dirigente sportivo deve fare il dirigente sportivo, certo, e non la balia a calciatori che perdono così facilmente le staffe. Non c'è nessun dubbio. Capitolo sciopero dei calciatori. Negli ultimi giorni, negli ultimi due giorni è successo di tutto, nel senso che è successo che il portavoce Oddo si è ricalato nella parte e ha fatto sapere che praticamente era tutto a posto. L'associazione dei calciatori si è trovata scavalcata, io riassumo in maniera un po' brutale ma credo sostanziale, l'associazione dei calciatori si è ritrovata brutalmente scavalcata da Oddo, non pensandola minimamente così, morale. La mediazione che domani la federazione farà tra le controparti è più a rischio a questo punto, anche perché Albertini, che è vicepresidente federale ma che è anche un uomo dell'associazione dei calciatori, storicamente ha preso una posizione pro AIC che a Beretta, e cioè Lega Confindustria, non è piaciuta per nulla. La confusione regna sotto il cielo del contratto collettivo nazionale, questo mi sembra evidente. Restando ai fatti, cerchiamo di restare appunto a quella quello che è lo stato della trattativa. Domani presso la federazione, che fa in qualche modo da mediatore e da garante tra Lega e AIC, si terrà una seduta che dovrebbe essere non stop, almeno questa ha chiesto Beretta, quindi si dovrà cercare un accordo sui punti che ancora restano fuori dalle intese che bene o male erano stati già raggiunti. C'è anche la possibilità, qualora questo non avvenga, che la federazione nomini un commissario ad acta, cioè un soggetto chiamato a guidare per quanto riguarda la Lega le trattative finché il contratto collettivo, il nuovo contratto collettivo non sarà stipulato. Però tanto per capirci, per esempio, se fosse stato già stipulato questo accordo nel caso appunto Sampdoria-Cassano, per esempio la Sampdoria avrebbe potuto non rivolgersi agli organi di giustizia federale e irrogare direttamente le sanzioni, e Cassano eventualmente avrebbe dovuto ricorrere a un giudice del lavoro, restando in sospeso finché il giudice del lavoro non si fosse poi pronunciato. Quindi evidentemente quella questione dei diritti su cui i calciatori tanto si stanno impuntando non sono tante questioni campate in aria, ma hanno poi dei risvolti concreti molto molto pratici. Seconda domanda legata a questo capitolo, che poi nei prossimi giorni dovremo approfondire perché l'incontro è per domani. Quindi. Allora, già si parla, cioè la data dello sciopero è già fissata e pende su questo tavolo, è lì in sospeso come la famosa spada. Però è anche vero che in questa presa di distanze di Oddo rispetto al sindacato, pare si nasconda una posizione non isolata, ma pare invece che si stia un po' spaccando il fronte dell'associazione calciatori, non tanto come vertice quanto come base, e cioè ci sarebbero molti calciatori, e si è detto per esempio di Lazio, molti laziali, alcuni milanisti, altri in giro per l'Italia ma non ancora ben identificabili come gruppo, che sarebbero su posizioni più concilianti rispetto a quelle enunciate dall'associazione, da Campana, dallo stesso Albertini. Che cosa ci può essere di vero in questo? Beh, il fronte della Lega è stato come dire, capitanato nelle ultime settimane da Lotito e dalla Juventus, quindi non mi meraviglio che i laziali, anche come dire, rinvigoriti dai successi in campionato, vogliano dedicarsi a quello e non stare a considerare questioni come dire, contrattuali. Chiaramente è quando le trattative si prolungano molto c'è sempre il rischio che una parte dei due fronti si spacchi e ci siano quindi rotture interne. Io credo che ci sia la possibilità di trovare un accordo, e c'era fino a qualche settimana fa. Il vero problema è stato il fatto che la Lega si è presentata con Nuovo Fronte Lazio-Juventus molto irrigidito, e soprattutto con nuove proposte, per esempio la possibilità di scindere in contratto nel caso di un infortunio superiore ai 3 mesi, o l'obbligo di una decurtazione intorno al 30-40% in caso di retrocessione, proposte che non erano nel pacchetto iniziale, che hanno come dire, scontentato i vertici dell'Associazione Italiana Calciatori. Evidentemente se la Lega ritirasse queste due proposte o rinunciasse a spingere su questi fronti, si potrebbe, a mio avviso, trovare l'accordo, fermo restando che quei due punti, cioè fuori rosa e obbligo di trasferimento, i calciatori non li vogliono, no. E su quello anche Oddo ha detto che insomma non si transigerà, non hanno alcuna intenzione di passarci su. Poi Marco da Trento ha scritto: temo che il dottor Belinazzo dimentichi, con molta cortesia però l'ha scritto, che dopo la rescissione del contratto con Cassano la Samp può chiedere anche il risarcimento danni. Questo è evidente, ma è chiaro che entriamo però su un terreno altro, soprattutto su un terreno i cui tempi mal si conciliano con i tempi del calcio e delle stagioni sportive. Chiaramente la Samp potrà far valere quelli che sono i suoi diritti legati alla perdita del valore patrimoniale che subirà o che subirebbe in caso di rescissione del contratto. Non so quanto questo sia automaticamente collegabile alla clausola rescissoria, cioè 18 milioni, e d'altro canto è anche vero che c'è un risparmio oggettivo, cioè l'ingaggio che la Samp non dovrebbe più versare a Cassano, quindi parliamo di un 10-15 milioni spalmati sui 3 anni, il che renderebbe l'eventuale risarcimento ottenibile alla Sampdoria non paragonabile alla perdita di valore oggettiva che subirebbe nel caso di rescissione del contratto, insomma. Io credo che se la mettono su da un punto di vista patrimoniale, insomma, alla Sampdoria non converrebbe fare un passo indietro, perché questa è una questione di principio ineludibile, quindi ci mancherebbe altro. Però se uno deve fare i conti, io penso che la Garrone e la Sampdoria le abbiano già fatti i conti, abbiamo deciso che quando la misura è colma, è colma. Ho il sospetto che ci sia anche altro dietro, evidentemente, al di là di questo episodio, se la Sampdoria ci è andata giù così pesante ed è stata così decisa. D'altro canto bisognerebbe poi sempre trovare qualcuno disposto a pagare 18-20 milioni alla Sampdoria per Cassano, certo. Eventualmente ci dimentichiamo di questi aspetti, magari qualche anno fa non sarebbe stato così difficile, oggi insomma comincia a essere una cifra importante, capace di ridurre il bilancio di un intero mercato per un club di media portata, e importante anche per il bilancio della Juve. Questa è un'altra notizia appena uscita, non riguarda un club italiano, però riguarda il Bayern Monaco, insomma, più o meno lo conosciamo. Allora, ed è una notizia che indirettamente riguarda te nel senso di questa, della tua specializzazione. Allora, il Bayern ha avuto l'ennesima tegola. Olic, il croato, si ferma per almeno 6 mesi per un infortunio al ginocchio che necessita di un intervento già deciso negli Stati Uniti. Qual è il problema? Il problema è che il giocatore si è fatto male lo scorso 12 agosto durante un'amichevole Croazia-Slovacchia. Ora, dato che il Bayern negli ultimi tempi è stato vittima di un'incredibile serie di infortuni dovuti a ricadute, per caso massimo quello di Robben, la teoria dei manager del Bayern è che Robben non doveva essere convocato per i mondiali, nemmeno giocare, invece ha giocato fino alla finale eccetera, adesso è spaccato per non si sa quanti mesi, c'è stato un altro caso e adesso c'è anche questo di Olic. A che punto è questo tipo di divertenza tra società, e tra club nazionale e tra medici sociali e medici nazionali? Beh, c'è un tavolo aperto alla FIFA proprio per capire chi deve pagare le assicurazioni in questo genere di vicende, ed è un terreno molto ma molto scivoloso, perché va a toccare quelli che sono gli interessi dei club dall'altro e la rilevanza del calcio e delle nazionali per le federazioni e per lo sport di una nazione. Si sta discutendo, insomma, ho paura che ce ne vorrà ancora un po', ma che a una soluzione si dovrà arrivare, perché altrimenti insomma il danno patrimoniale per i club diventa sempre un macigno sempre più grande e difficile da gestire. Marco, io credo che, dato che mancano circa 3 minuti alla fine della trasmissione, io e so che tu hai una notizia che potrebbe anche fare un pochino di rumore, allora questa la diamo in chiusura. Adesso pregherei la regia di far partire la sigla del nostro appuntamento con la storia, che oggi per una volta, visto che è festa, non è affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 1 novembre 1897, un gruppo di studenti del liceo Massimo D'Azeglio di Torino fonda la Juventus, e quindi questo evidentemente è un compleanno storico, sono 113 anni di vita oggi della vecchia signora. Il 1 novembre 92 però nasce in Marocco Ruby, perché la nipote di Mubarak, che mi sembra se quella è la vecchia signora, questa mi sembra la giovine signora dei tempi nostri, che a sua volta c'entra con il calcio, perché non solo con un noto presidente, ma anche, ho letto le ultime descrizioni di giornata, anche c'entra con calciatori di Genoa e Sampdoria, e quindi bene o male anche questo compleanno della mitica nipote di Mubarak, no, mi pare che abbia un suo significato. A Marco Bellinazzo vorrei chiedere in finale che cos'è questa in dettaglio questa indiscrezione di cui mi hai parlato prima, che riguarda una delle sue due società capitoline, diciamo non quella messa meglio in classifica. Beh, la Roma ha qualche problema nel pagare gli ingaggi che hanno assicurato verrà subito e presto risolto. Ci sono almeno 4 mesi che i calciatori non ricevono gli ingaggi. C'è in questi casi 4 mesi? C'è in questi casi anche un rischio di penalizzazione, ma dovrebbe essere risolto, insomma, a giorni la presidenza della Roma ha assicurato che il problema sarà risolto. È chiaro che è sintomo di un problema generale che andrà prima o poi risolto, quello della vendita della Roma. La procedura è in atto, insomma non abbiamo tempo ora per parlarne. No, però, un buon mezzo minuto c'è ancora. Però qualche giorno fa abbiamo parlato per esempio di un pericolo analogo di penalizzazione per il Liverpool, sì, in Gran Bretagna, e dunque un calcio che economicamente è ancora in affanno. E dunque il fair play finanziario è ancora un miraggio, caro Michel Platini, insomma, che tanto, su cui tanto sta battendo la UEFA, ma qui e là emergono forti scricchioli, insomma qualcosa non va, i bilanci che vengono approvati sono ancora in rosso e di molto, anche la Roma ha chiuso con 22 milioni di rosso, insomma l'ultimo bilancio, e evidentemente insomma si fa ancora fatica a recepire, al di là delle dichiarazioni ufficiali, questi dettami. Certo, 4 mesi di stipendi arretrati, insomma non... Forse potrebbero anche contribuire a spiegare un momento non facilissimo, no? Da un punto di vista dell'autocontrollo, ma non sto parlando di Totti in questo caso, che secondo me non c'entra nulla in questo. C'entra però con un malessere ambientale, perché poi difficilmente in una società in cui non vengono rispettate le scadenze c'è quella serenità complessiva. Ci torniamo nei prossimi giorni, anche perché dovremo tornare comunque con te sull'argomento sciopero, che io credo da domani ritorni strettamente di attualità e comincerà anche a essere calendarizzato in maniera seria. C'era Fabio Cantadori in regia, c'era Franco Piantanida in redazione. Grazie anche a Marco Bellinazzo, a tutti voi che siete stati all'ascolto. Buon pomeriggio.